io sono a casa, a 300 figli, la mostrina a Milo per tutta la giornata. La pianata non sta, ho voglia di parlare, ma quando vado in pasta mi viene a vomitare. Sento ricasare, dopo mezzanotte, stato con gli amici, le ore piene di notte. Ma lui entra nel letto, tutto sorridente, allunga una mano e fa finta di niente. È arrivata l'ora, come in notte, devo far scopare un mirepie di botte. Ma la storia cambia, perché stamattina è arrivato un pasto che aspettavo dalla Cina. Shabu, Shabu, è la soluzione, elimina il problema, non sporcherò un po' d'ore. Se tu arriva in casa, ho un marito prepotente, tagliami a minetto e cancellai con me. No, no. Yes, sex! No sex! Yes, sex! No sex! Il tuo partner non è un distributore! Yes, sex! Il tuo partner non funziona ad ore! No sex! La persona è da una morale! Yes, sex! Non è una bambola, ora che parlare! No sex! Il sessismo è una repressione! Yes, sex! Non è un rabbi, ma sposa condizione! No sex! Solo dire di saper amare! Yes! Cosa?